5D. Ascolta e rispondi. Hai parlato con Mario? No, non ho parlato con Mario. Hai sottolineato l'esercizio? No, non ho sottolineato l'esercizio. Hai giocato a scacchi? No, non ho giocato a scacchi. Hai trovato l'albergo? No, non ho trovato l'albergo. Hai guardato il film? No, non ho guardato il film. Hai incontrato Pauline? No, non ho incontrato Pauline.